Sport e motori con Massimo Di Scienza. È entrato Lorenzo, attenzione Lorenzo, di nuovo largo, oddio, quasi una carenata, e Valentino si ributta dentro, non hanno ritegno l'un per l'altro, che duello, adesso Lorenzo ancora per entrare, ne ha come laguna seca, l'erba, però, aiuto, però, bestiale! Ma cosa sta andando a cercare? Dove? No, perché lo sa che Valentino risponde subito, dice non faccio come Spone. Ma cosa sta andando a cercare, mamma Lorenzo? Mamma mia, arrivo in volata per Rossi e Lorenzo, ragazzi. Mamma mia! Standing ovation per Rossi. Era troppo bella la telecronaca di Guido Meda tratta dalla diretta di Italia 1 di questa mattina del Gran Premio di Motegi classe MotoGP e del duello tra Valentino Rossi ed Jorge Lorenzo, per non farvela riascoltare nel modo forse migliore, per fotografare quello che è accaduto questa mattina, ora italiana, a Motegi, quint'ultima gara della stagione in MotoGP. Sapete, la vittoria nella classe regina che è andata a Casey Stoner davanti a Dovizioso, e poi al termine di questo duello strepitoso, forse il momento più bello della stagione dal punto di vista spettacolare, il terzo posto che è andato a Valentino Rossi davanti al compagno di squadra Jorge Lorenzo. Questi fatti, buon pomeriggio, buona domenica a tutti amici di Radio 24, da Massimo Di Scienza un saluto, saremo insieme fino alle 17 per parlare in questa prima fase di MotoGP, Motomondiale, poi nella seconda di Formula 1 con un ospite molto importante che ci farà proiettare nel futuro della prossima stagione in Formula 1. Ma torniamo a Motegi e lo facciamo anche grazie al commento del nostro amico, nostro esperto di Motomondiale, l'inviato di Sky Sport, Carlo Vanzini. Ciao Carlo. Ciao, buon pomeriggio. Buona domenica. Geloso per il fatto che abbiamo fatto sentire Meda, no? No, tu sei bravino lo stesso. Siamo amici dall'infanzia. No, quindi... Non ti offendere. No, ma era troppo bello. Anche perché, Carlo, dicevo in apertura, forse il momento, come dire, più spettacolare della stagione, il duello per il terzo posto, peccato che non sia stato un duello per la vittoria, tra due compagni di squadra che tutto sono al momento fuorché amici, no? Ma è il duello che avremmo voluto vivere per tutta la stagione, se non ci fosse stato l'infortunio di Valentino Rossi, due infortuni, prima la spalla e poi la frattura al Mugello, avremmo vissuto questo duello fino alla fine, probabilmente per l'assegnazione del titolo mondiale, perché non dimentichiamo che prima dell'incidente del Mugello Valentino Rossi era assolutamente attaccato a Lorenzo in classifica mondiale. Quindi è quello che ci aspettavamo, lo volevamo vedere, lo volevamo vivere. So che sta creando parecchie polemiche, che la Yamaha addirittura... Sì, ora ne parliamo. Sì, ecco, di questo dobbiamo parlarne, però bello, dai, entusiasmante, roba davvero da sveglia, bella secca la mattina di domenica. È vero, il modo migliore per iniziare la domenica, non c'è dubbio. Tra poco parliamo delle piccate prese di posizione dei vertici della Yamaha per quello che è successo a Motegi. Prima però ovviamente apriamo le linee, no? all'800 24 00 24, raccontateci come avete vissuto un po' questo duello tra Valentino Rossi e Jorge Lorenzo, un duello interno alla Yamaha, queste sportellate come le hanno definite i telecronisti e come ormai abitualmente vengono definite di questo tipo di contatti ravvicinati. Anche i vostri sms ne attendiamo tantissimi al 349 238 6666. La domanda, caro Carlo Vanzini, che poi ovviamente girerò anche a te, nasce un po' da queste dichiarazioni del boss della Yamaha, Masao Furusawa, il numero uno della casa del diapason. Non gli sono piaciute evidentemente queste sportellate tra Valentino Rossi e Jorge Lorenzo, tant'è vero che Furusawa, subito dopo la fine della gara, che peraltro la Yamaha disputava in casa visto che si correva in Giappone, ha detto: non voglio più vedere un comportamento così tra due compagni di squadra, il nostro obiettivo è conquistare il mondiale costruttori e quello piloti, ci aspettiamo che nelle prossime ore Rossi si comporti in modo differente nei confronti degli altri piloti della Yamaha. Non ero presente all'incontro che c'è stato tra i piloti e Harviss, ma credo che la tesi di Valentino, che la gara sia stata intensa, dura ma corretta, non ci sono stati sorpassi scorretti, non c'è una manovra in particolare da sanzionare, ma ci sono situazioni dove puoi essere molto aggressivo e in altre solo giustamente aggressivo. Insomma, basta con questa rivalità che, secondo Masao Furusawa, boss della Yamaha, è una rivalità inutile. Voglio chiedere ai nostri ascoltatori cosa ne pensano di queste parole, di quello che è accaduto. Come detto, via sms 349 238 6666 oppure al telefono all'800 24 00 24. Voglio chiedere anche a Carlo Vanzini cosa pensa di quello che è successo questa mattina a Moteggi. Ha ragione ad essere, come dire, un po' incavolato il boss della Yamaha oppure no? Guarda, io ho visto le reazioni un po' sui vari forum, sui vari siti, per capire un po' come la pensa la gente, no? Ovviamente sono tutti pro Valentino, ma detto questo, viviamo in Italia, certo. Quindi sono abbastanza scontate. Per dare ragione a Furusawa, poniamola così, mettiamo che Alonso in lotta per il mondiale, lo sta per vincere, ma non è ancora sicuro, e Massa lo infila 3-4 volte. Credo che Domenicali in quel caso si arrabbierebbe molto, e anche il presidente Montezemolo. Quindi da questo punto di vista Furusawa ha ragione. Non ha ragione nel momento in cui ha lasciato che all'interno del team Yamaha fosse messo un muro tra i box dei due piloti. Da quel momento in poi è stato ben chiaro, anche perché poi nella MotoGP non ci sono le stesse regole, diciamo, tra virgolette, che ci sono in Formula 1 tra i piloti. Da quel regole momento non poi, scritte, no? Ti riferisci alle regole non scritte, primo e secondo pilota, cose del genere. Okay. Da quel momento in poi, nel momento in cui ha accettato che ci fosse un muro a dividere i box dei due piloti, ha accettato che ci fosse rivalità sempre, e di certo non può aspettarsi da Valentino Rossi in questo momento un aiuto nei confronti di Lorenzo. E allo stesso tempo Lorenzo, se ha in testa il mondiale, basta arrivare quarto, il suo mondiale se lo porta a casa ormai in modo scontato. Senti, non è che questa mattina Furusawa, mattina ora italiana, Furusawa si è reso conto di aver sbagliato pilota per il 2011? Ma io credo che ci sia un po' di frustrazione per un paio di motivi. Uno, però, bisognerebbe essere all'interno del team per capire se è effettivamente così. Da quando Valentino Rossi non ha più sviluppato la moto, o meglio, la Yamaha non gli ha più passato i pezzi per provare la moto, la Yamaha è andata un po' in debito d'ossigeno nei confronti degli avversari. Mentre da quando c'è stato l'annuncio del passaggio di Valentino Rossi in Ducati, sta di fatto, non credo che il soprannome sia dato a caso, quello del dottore, sembrano guariti tutti di un colpo in Ducati, perché ha conquistato due vittorie consecutive con Stoner, quindi si sta mettendo per gli avversari di Valentino Rossi una situazione un po' particolare, che Valentino Rossi ha firmato per la moto che in questo momento va più forte di tutte, quindi uno più uno dovrebbe fare due. Poi abbiamo fatto tutti i ragionamenti del caso su Valentino Rossi in Ducati e non ci torniamo, però io credo che in questo momento ci sia un po' di frustrazione. Secondo me la Yamaha ha fatto bene puntare sul pilota più giovane, un pilota comunque forte, perché Lorenzo è indubbiamente forte. Mi piacerebbe capire se la crisi, tra virgolette, Yamaha di vittorie, non di risultati, ma di vittorie, diciamo così, è legata a un mancato lavoro, forse probabilmente forzato, di Valentino Rossi nello sviluppo della moto. Quello che poi ci scrivono anche via sms tanti nostri ascoltatori, Squilli per esempio al 349-238-6666 dice: vabbè, Valentino ha fatto bene, gli altri vincono perché lui ha avuto problemi fisici e non solo, secondo me anche in qualche modo morali, nel senso che proprio il suo morale, ricordi le parole dopo Aragon 15 giorni fa, ne ha risentito parecchio di questi colpi, in una stagione in cui, Carlo, voglio essere ancora, come dire, un po' acidello, vincono il mondiale non proprio due suoi amici, cioè Lorenzo e Max Biaggi. È vero che su Biaggi lui dice no, è tutta acqua passata eccetera, però secondo me un pochino sotto sotto. Vabbè, sentiamo cosa ha detto oggi Valentino Rossi dopo la fine della gara di Moteggi, sicuramente soddisfatto. Era meglio farlo per la vittoria, ma purtroppo Lorenzo mi ha passato per forza il primo giro e mi ha fatto perdere 3-4 decimi al giro dei primi due, sennò avevo il passo per stare con loro. Quando ce l'ho fatta passare ero un secondo e sei e sono rimasto lì più o meno tutta la gara. Poi alla fine purtroppo queste gomme per me sono un po' troppo morbide per il mio stile di guida. Io sono sempre abituato ad andare con delle gomme più dure, ma la dura non si riusciva a usare e quindi alla fine ero veramente avevo dei problemi, diciamo. E lui è tornato bello cattivo, però è stato divertente, faccio complimenti anche lui, è stata una bella battaglia e il podio è importante. Quando lui mi ha preso io alla fine ero stanco, ero sfinito e nelle frenate non ero più incisivo come all'inizio, a un certo punto ho perso 3-4 decimi, però vabbè, ho detto bisogna che gli ultimi tre giri ce la faccio. E questa è la soddisfazione di un Valentino Rossi, Carlo Vanzini, che non sentivamo così contento da un po' di tempo, no? Sembra quasi che l'abbia vinta lui la gara. Forse è una di quelle giornate in cui così Valentino si sente davvero come se si fosse portato a casa i 25 punti, no? Un pomeriggio che dà tanta fiducia. sembra che abbia già operato la spalla. Esatto. Perché l'avevamo lasciato, che era lì mogio, come ricordavi giustamente tu, dopo il Gran Premio di Aragon. Adesso invece siamo di fronte al solito Valentino Rossi che festeggia l'ennesimo duello corpo a corpo vinto, ma d'altronde lo sappiamo quanto Valentino Rossi sia da questo punto di vista forte nel corpo a corpo. Hanno tutti subito Valentino Rossi, Guido Meda ricordava Laguna Seca, quel passaggio di su Stoner, certo. Fantastico, incredibile, quindi insomma abbiamo ritrovato nel corpo a corpo Valentino Rossi, ma soprattutto si sta creando a mio avviso una rivalità che ci farà godere in assoluto il futuro tra Valentino Rossi e Lorenzo, perché Lorenzo subito dopo gara ha detto: adesso saprò come regolarmi nei prossimi Gran Premi. Quindi, ecco Carlo, a questo proposito volevo chiederti una cosa: secondo te dietro le parole del boss della Yamaha c'è anche una lamentela di Lorenzo che è andato, come scrivono alcuni nostri ascoltatori, a piagnucolare dopo la gara per quello che è successo, oppure è tutta farina del sacco Furusawa? Ma Lorenzo ha sicuramente dichiarato, perché l'ha fatto, che insomma non si aspettava questo atteggiamento. Un Valentino Rossi così duro nel momento in cui c'è un mondiale da vincere, quindi in qualche modo sicuramente Lorenzo si è lamentato, in qual misura ovviamente non lo sapremo mai. Di certo queste situazioni in passato si risolvevano con la serranda del box tirata giù, faccia a faccia. Ricordiamo anche la spiegazione tra Valentino Rossi e Max Biaggi, dove volarono parolone pesanti. Io credo che ci avviamo verso l'ennesimo grandissimo duello, quello che c'è stato tra Biaggi e Valentino Rossi, tra Valentino Rossi e Stoner, Valentino Rossi e Gibernau. Tante variabili, l'unica certezza è che c'è sempre di mezzo Valentino Rossi, che evidentemente per superiorità fa girare, vabbè, non diciamo le scatole, le fa girare agli avversari. Era così, insomma, quando sei davanti a un numero uno e fai fatica a batterlo, vedi che quel giorno il numero uno è forte, insomma fai molta fatica. Chi invece non sta facendo fatica in questo periodo, Carlo, è sicuramente Casey Stoner, che dopo Aragon ha vinto il secondo Gran Premio consecutivo, fuori tempo massimo per la corsa al titolo, perché ormai la distanza rispetto a Jorge Lorenzo è praticamente incolmabile. Però, insomma, come dire, da questo doppio successo la stura tutta una serie di considerazioni. Cosa è successo alla Ducati? Come mai nelle ultime gare è riuscita finalmente a trovare quell'equilibrio, forse, che nel resto della stagione non era stata in grado di recuperare, secondo te? Ma è sempre quel mistero, ti dicevo prima, secondo me qualche indicazione da Valentino Rossi, che ovviamente la moto non l'ha provata, almeno per quello che possiamo sapere noi, poi magari è andato di notte nel parcheggio di qualche euromercato a provarla. Sarebbe simpatico. Però secondo me qualche dritta già è arrivata, perché comunque è un pilota che parla, che ti può anche dire: guarda, provate la forcella così, provate equilibrare la moto così. Evidentemente la Ducati ha trovato la soluzione dei propri mali, perché comunque due vittorie consecutive, è vero mancava Pedrosa, però due vittorie consecutive hanno un gran peso, quindi la Ducati adesso sta lavorando nella giusta direzione. Stoner forse si starà chiedendo, tu dicevi prima, la Yamaha si sta chiedendo se ha scelto il pilota giusto per il futuro. Forse Stoner si sta chiedendo se ha scelto la moto giusta per il futuro, sì. Però io credo di sì, perché comunque la Honda sta andando molto molto forte. Poi sono quelle case che saranno sempre lì a giocarsela per il titolo mondiale. Di certo mi rimane questo mistero. Io credo che Valentino Rossi un paio di dritte le abbia già date. Questo poi non giustifica. Non giustifica ovviamente i risultati della... Non è questo solo a giustificare i risultati della Ducati. Ultima parte di questo primo blocco di Sport e Motori, perché insomma lo vogliamo dedicare anche un pochino a Dovizioso, alla sua pole position conquistata ieri, oggi questo secondo posto. Anche qui forse arriva un po' tardi in stagione, visto che il suo futuro tra virgolette è già segnato per quanto riguarda l'anno prossimo, però sono segnali di vita sportiva ovviamente importanti che il Dovi finalmente è riuscito a darci. Sì, assolutamente, ha fatto una gran bella gara. Secondo me era andato un po' sopra le righe prima del Gran Premio di Aragon, quando dichiarò: io devo essere il pilota ufficiale perché sono comunque davanti in classifica Stoner, ecco lì che Stoner ha piazzato due vittorie, quindi lui rivendicava il ruolo di pilota insieme a Pedrosa del team ufficiale, non di essere mandato a un team satellite, e Stoner ha risposto con due vittorie e gli si è portato abbondantemente davanti in classifica. E quindi al team satellite ci andrà comunque, nonostante queste dichiarazioni. Sì, ma era per forza, cioè comunque sei di fronte a Stoner e Pedrosa, stiamo parlando di due sconosciuti, ma io credo che comunque anche al team satellite Dovizioso ha le possibilità di far vedere quello che vale, anzi a volte si sta meglio nel team satellite, soprattutto se nel team principale poi hai come compagno di squadra Pedrosa o Stoner, uno che magari va a prendersi tutta l'attenzione della squadra. Dovizioso ha fatto una grande gara, la partenza così, ma insomma credo che oggi contro questo Stoner ci fosse ben poco da fare. Dunque vittoria per Stoner, il motomondiale che torna fra una settimana, perché adesso c'è questo gran finale con 5 gare nel giro di un mese, davvero, come dire, ai limiti della sopravvivenza umana. Si torna fra una settimana, andiamo in Malesia, poi il 17 in Australia, il 31 ottobre Portogallo e poi la chiusura il 7 di novembre per l'ultima gara, ma probabilmente il mondiale sarà stato già assegnato, almeno per quanto riguarda la MotoGP. Restate con noi, tra poco parliamo di Formula 1. Sport e motori. Le 16:47 minuti 30 secondi, seconda parte del nostro appuntamento settimanale. Abbiamo parlato e tanto del Gran Premio del Giappone di Motegi, classe MotoGP. Ricordiamo vittoria di Casey Stoner davanti a Dovizioso e Valentino Rossi. Si torna a correre domenica in Malesia. Domenica si torna a correre anche in Formula 1, quindi domenica prossima non perdete uno sport e motori che per forza di cose sarà ricchissimo di contenuti. Gran Premio del Giappone per quanto riguarda la Formula 1 e di doppietta in doppietta, da quella di Casey Stoner a quella di Fernando Alonso, che lo ricordiamo ha vinto a Monza, poi si è ripetuto a Singapore domenica scorsa, quindi sarà lui ovviamente l'uomo da battere in vista del Gran Premio di domenica. È così Carlo Vanzini, inviato di Sky Sport? È lui l'uomo da battere? Al momento sembrerebbe, anche se a Suzuka credo che Suzuka sia un circuito abbastanza buono per la Red Bull, ed è molto diverso da Singapore, dove comunque passare era impossibile, quindi anche un eventuale errore in qualifica di Sebastian Vettel lì sarebbe rimediabile, quindi sulla carta Suzuka è una pista per la Red Bull. Di certo, da un punto di vista psicologico, in questo momento il più forte è Fernando Alonso, uno perché in casa Red Bull sono ancora comunque a spartirsi i punti Sebastian Vettel e Mark Webber. La McLaren deve capire da un punto di vista tecnico se può recuperare il notevole gap di differenza che ha evidenziato soprattutto nell'ultimo Gran Premio, però a Suzuka dovrebbe tornare ad essere competitiva. Fernando Alonso ha a disposizione Felipe Massa, che può in qualche modo, ovviamente non è che può far sportellate e buttare fuori gli altri, però può in qualche modo stargli intorno, aiutarlo. Quindi da un punto di vista psicologico, a parità di macchine, in questo momento il favorito numero uno è Fernando Alonso, però sappiamo che è uno sport dove la parità di macchine non esiste quasi mai, quindi dovremo valutare dopo la prima sessione di prove libere il reale valore delle monoposte. In casa Ferrari hanno detto insomma lì sarà più un gran premio in difesa, però come diceva il buon Fernando, contano i podi, conta essere lì, conta essere vicino, conta giocarsela sempre e soprattutto conta non commettere più errori fino alla fine della stagione. I famosi errori gratuiti che poi ti fanno perdere il mondiale, ed Hamilton ne sa qualcosa, visto insomma com'è andata nelle ultime due gare, anzi una gara sicuramente, sulla seconda il dibattito è ovviamente aperto. Abbiamo parlato quindi di futuro della stagione di Formula 1, adesso vogliamo regalarvi uno squarcio nel futuro della Formula 1 che verrà. Formula 1 2011 e la sua rivoluzione delle gomme, quella che è stata ribattezzata così perché dopo tanti anni cambia il fornitore ufficiale di pneumatici per quanto riguarda la Formula 1 e sarà un fornitore ufficiale italiano, e di questo dobbiamo essere orgogliosi perché dal prossimo anno Pirelli fornirà gli pneumatici per tutti i team, ed è un piacere e un onore avere con noi in diretta l'ingegner Paul Embry, che è direttore motorsport e team Formula 1 di Pirelli. Buon pomeriggio ingegnere, grazie per averci raggiunto. Sì, buongiorno a tutti. Buongiorno, da 20 anni in Pirelli, inglese, dopo vari incarichi ha assunto da qualche anno la responsabilità di tutte le attività sportive car di Pirelli. Dicevamo, è una bella soddisfazione per Pirelli fornire al Circus della Formula 1 le gomme dal prossimo anno, ma anche, come dire, una bella responsabilità perché tutti gli occhi e i riflettori saranno puntati su di voi. Qual è la difficoltà maggiore che avete avuto in questi primi mesi di lavoro, ingegnere? Ma in realtà il tempo, perché abbiamo pochi mesi di prepararci, è una sfida abbastanza notevole da questo punto di vista, ma dai seri di prove che abbiamo effettuato fino adesso siamo abbastanza confidenti. Ingegnere, con noi c'è anche Carlo Vanzini, inviato di Sky Sport, che ovviamente insomma ci aiuterà a proseguire l'intervista. Carlo, qualche curiosità da chiedere all'ingegnere Embry? Ma io ne approfitto subito, perché torno alle dichiarazioni di Norbert Haug, che ha detto che Michael Schumacher, i problemi di Michael Schumacher sono legati quest'anno soprattutto al tipo di gomma che stanno utilizzando con la Bridgestone e che invece l'anno prossimo sono abbastanza sicuri di poter fare una macchina intorno alle gomme, ovviamente perché si parte sempre dalle prestazioni delle gomme, adatta per Michael Schumacher. La mia domanda non è su Michael Schumacher, io vorrei sapere se, visto che tutte le scuderie stanno già lavorando sulla macchina 2011 con le simulazioni, ovviamente, se voi state già fornendo i dati dei risultati delle gomme alle scuderie o le scuderie stanno lavorando un po' al buio per quanto riguarda le gomme? Sì, ho sentito anche Philip Massa che ha detto che anche lui pensa che l'anno prossimo andrà forti con le nostre gomme, quindi anche per noi è una sorpresa che dicono già queste cose. Ma in realtà hanno cominciato già dal 1 settembre a lavorare con i dati nostri per fare le simulazioni. Quindi non so se hanno visto qualcosa che a loro interessa per fare andare bene la loro macchina, ma secondo me è ancora un po' presto. Ingegnere, qual è la differenza anche per noi non esperti proprio del campo pneumatici? Qual è la differenza maggiore che avrà la gomma Pirelli rispetto alla Bridgestone? Poi sul campo, in pista. Ogni azienda ha la sua filosofia, cioè dal disegno, dai materiali usati e la tecnologia che uno usa in casa. Quindi tra tutti questi elementi ognuno fa il suo prodotto. Carlo. L'altra mia curiosità è legata ovviamente alle prestazioni della gomma, perché quest'anno un po' la critica che è stata fatta alla Bristol, o comunque al sistema, al regolamento attuale che prevede l'uso delle due mescole obbligatoriamente a meno che non ci sia gara bagnata, è il fatto che abbiamo avuto delle gare a Monza, Vettel, Massa, Singapore, che hanno fatto la gara, praticamente tutta la gara con una mescola sola, poi l'hanno cambiata l'altra per fare uno o due giri. Si discute sull'opportunità di avere delle gomme comunque che non durino più di 20 giri, in modo tale da poter gestire una strategia anche diversa in corsa ed avere ovviamente in tal senso più spettacolo. Qual è il vostro orientamento? Fare una gomma comunque che abbia un deterioramento o per fare salvare il marchio, non aver critiche, avere una gomma che resiste molto? Ma in realtà, come scatto prodotto, ovviamente la sicurezza è fondamentale. Quando parliamo di mescole, avremo due mescole come oggi, ma stiamo cercando di avere almeno due mescole molto diverse, quindi c'è la strategia in gara. Il nostro problema in realtà è che ci sono tante piste dove non possiamo creare esperienza o avere esperienza, tipo Singapore, tipo Monte Carlo, ma siamo abbastanza confidenti sulla maggior parte delle gare avremo una differenza abbastanza importante tra le due mescole e non avendo una mescola che dura quasi tutta la gara come abbiamo visto oggi. Ingegnere, dal punto di vista economico, finanziario, che tipo di impegno è quello in Formula 1 di Pirelli? Quanto costerà a Pirelli il ritorno in Formula 1? Allora, ma i costi totali non parliamo, ma abbiamo sempre detto che con la realtà di oggi, dove le squadre a meno ci paga per il fornitore delle gomme, che è una novità nella storia della Formula 1. Poi noi abbiamo deciso di non continuare con impegni tipo Mondiali Rally e Grand Am negli Stati Uniti. Da cui uscirete? E poi spostando investimenti su altre aree di media, di advertising verso la Formula 1, siamo riusciti a fare il programma ai costi totali di oggi, cioè l'investimento oggi totale di motorsport pubblicità. Quindi è un impegno pari a zero, insomma, dal punto di vista dell'esborso economico? Ma come profit and loss dell'azienda, sì. ovviamente il ritorno è abbastanza importante, avendo certo. 1,5 miliardi di pubblico che guarda gli eventi, è mondiale vero, cioè che succede ogni anno, non come il calcio che ogni 4 anni andremo in Asia per fare 6 gare, che è un'area dove Pirelli deve crescere come azienda. Stiamo parlando già l'anno prossimo della gara in India, poi la Russia, forse dopo 2 anni, Roma. Poi gli Stati Uniti di nuovo. Quindi come piattaforma per promuovere il nostro brand è ideale. È straordinario. Vi aspettate che ci siano anche delle indicazioni per la gomma, come dire, consumer, cioè per la gomma che poi finisce a noi piloti della strada, della settimana, di tutti i giorni? Cioè ci sarà anche questo tipo di ritorno per Pirelli, avere più indicazioni poi per la costruzione dei pneumatici per i consumer, appunto? Ma ci sono 2 livelli, ovviamente i mercati nuovi dove noi non siamo come brand molto diffuso, come Asia, come dicevo prima, come tecnologia ci sono diversi ricaduti sul prodotto stradale, anzi abbiamo avuto qualche esempio di tecnologia che è passato dal prodotto stradale alla Formula 1 in questo caso. Carlo, abbiamo ancora un minuto per così continuare a chiacchierare con l'ingegnere Emberi, quindi se hai un'ultima curiosità, a te la parola. Sì, allora, ultimissima, non voglio metterlo in difficoltà, gli chiedo secondo lui chi vince il mondiale quest'anno. Domanda facile, ingegnere? Sì, facile. Io sono inglese, quindi devo tifo per Hamilton o Button, ma in realtà credo, come ha detto Carlo prima, Alonso deve essere favorito, lui adesso è confidente, è un grandissimo pilota. Io dico Alonso, si deve scegliere oggi. Ah, bene, allora siamo più o meno d'accordo su questo ultimo sì. aspetto. Anche se, come diceva Carlo, è come non essere d'accordo con lui, la stagione è ancora lunga e complicata, nonostante manchino soltanto 4 Gran Premi alla conclusione. È stato un piacere avere con noi Paul Emberi, ingegnere direttore motorsport e team Formula 1 di Pirelli. Ingegnere, ci risentiremo anche magari all'inizio della prossima stagione, così ci racconterà in anteprima che tipo di pneumatico Pirelli fornirà a al circus della Formula 1. Grazie e buona domenica, ingegnere. Grazie a tutti, buona domenica. Grazie anche a Carlo Manzini, inviato di Sky Sport. Carlo, ci ritroviamo domenica, puntata ricchissima, avremo un bel po' da commentare, no? Tra la Suzuka e la Malesia, qui veramente ci sarà tanta carne al fuoco. Ciao Carlo, buona domenica. Ciao, e ci chiediamo, ma Valentino Rossi deve farsi operare o no? Ah, bella domanda, adesso ci pensiamo tutta la settimana. Credi no. Ci chiediamo anche, ma che fine ha fatto Carlo Cavicchi, direttore di Quattro Ruote, che oggi non è stato con noi? La risposta è facile, aveva un altro impegno, lo ritroveremo fra 2 settimane per la precisione, ma insomma ovviamente l'appuntamento con Sport e Motore è rinviato soltanto di 7 giorni. Ringraziamenti a Roberto Scaltritti in regia, a Giorgio De Luca per il lavoro preziosissimo in redazione. Adesso l'informazione delle 17, ma restate amici sportivi su Radio 24, perché dalle 17 alle 19 c'è A Tempo di Sport con Carlo Gente, quindi tutti i commenti della domenica calcistica. Noi ci ritroviamo, come detto, fra 7 giorni. Ciao. Sport e Motori.